gare. Cecchie. Quando fare la spesa, solo così Sto trattando, Sento la parte là. Ho montato un coso, un fondo, l'ho rimontato, l'ho pulito, tutto quanto, l'ho ripiazzato. Ma non funzionava. Allora l'ho tornato a rimontare, l'ho fatto a pezzare. All'altro per la ripiazza. E cosa hai riportato? Ah, su i capelli. L'altro ti ho montato, tre voci. Perché non funzionava? Ah, si è bloccato. Scaldava, ma no, ho girato. Allora l'altro ti ho montato. L'ho pulito, tutto quanto è nuda. Allora adoro di montarlo. Passa di... L'ho fatto a pezzare, l'ho fatto. Ma che? Non da fare. E invece ci vogliono... I cosi nuovi ci vogliono. Le testine nuove. Allora faccio sentire il Anch'io non l'ho usato mai. Perché era mio figlio che lo usava. Ogni tanto mi ho chiesto, dammi la macchetta, mi devo fare bene. Aspetta. E ho usato io, fatto il 5 volte. E poi lì, l'ho buttato, ha fatto bene. Il dottore ha detto, non funziona. Non funziona più, non funziona più. E allora ci ho fatto a pezzi, io puro. E non funziona. E allora ci ho fatto tutto. No. E io pure ci ho fatto tutto. No, quei cosi che si attaccano per farlo girare nella neve. No, quelli lì ci vogliono, nuovi. E a me li vendono, Non immaginavo di ordinarli. Ah, io l'ho preso da cose, da vivere, lì di fronte alla città, di fronte alla centrale. Era parchi fiber. Ah, questo va bene, non tratto di fiber. Si è bloccato e che sa fare? Che sa fare? Non ha avuto più capire nessuna ragione. Allora ho fatto il contatto e già è già come dire. Ma ci ho fatto a pezzi, ma l'ho rimpiazzato la distanza di me. Allora, si è attaccato con i carrelli. Non va tanto, bisogna affrontarli. Vabbè, tenta da voi, mio amico, sono i cinesi, se ce l'abbiamo, se c'è così. Audi e Audi, ma non sono lisci però, ma sono prestigi. Però fa appena più un anno, sono affittati. Allora, ho deciso di ritoccarli, è un po' carino. Fa farli prestigi. Anche la chiesa, non so, non mi sono ricordato nemmeno, magari me l'avrei comprato, ma se lo uso io, non ne uso, capito? Sarebbe un sacco, a me ci costa gli anni più, se l'avrete, e non ho mai usato io. Perché qualche pacchetto tagliato a quello lì, se lo avevo pulito, tanto, però ce l'ho buttato, vuol dire che me l'ho portato nuovo, anche se non lo uso, perché io vieni qua a farmi i capelli, la parrucchiera, la mia moglie fa i capelli a me, capito? Ho fatto bene. Ah, ma con tutti in famiglia. Infatti, l'ho fatto questo, così, da un mezz'anno, non l'ho usato nemmeno, l'ho usato nel mio figlio, così, e basta. E c'era da farci uscire, sono buoni lì, sono buoni, ma è forte, è bloccato, strano però, ma, e andate, già costava poco, mi sembrava che... pagatissima, ma una scrittura un po' una stretta, però che qui una cosa in te. Ah, io amico, la settimana di dell'Immacolata sono andato a accompagnare a mio nipote in palestra. Poi ci attendiamo lì in macchina ed io c'è che trovo mai giù, c'è di vicino. Ma ho ritoccato di bene, ma ho ritoccato. La moto non ne usano, però usano molto le macchinette usano. Ma mi ha fatto i beni, come te li vuoi dire, ma ha ritoccato. E quanto costano quelli cinesi, sto? Ah, le cose ho comprato, perché i carboncini. I carboncini, la parata più grandi. Adesso mi devo mettere e devo ritoccare, un minuto che ho più tempo, le ritocco e le faccio precisi. Se ne vanno che discussioni. Io lo ripeto, ce l'ho un tanto. E che spesso avrei dispreso, sto per regolarlo tutti i costi, perché era digitale quello che voglio. Ah, se te va tutto regolarmente, tipo che mente regolava, però non funzionava a tagliare. Ecco, tutto lì. Però, sto in contatto, ho visto che sempre va tutto a posto, però non funzionava. E allora mi sono stufato e ce l'ho buttato sto. E te la comprerò di nuovo, là. Sì, no, ma io mi ha dato una conto, ho fatto passare che cosa lì. Ma se io voglio che tu dici, se la riesci a curare, lo vedo che fa una mondetta. Vabbè, io ripeto, non l'ho usato mai più, mai. Ho provato la volta sola a tagliarmi le pacenti, perché c'era una figura, non so cosa. E poi basta, allora l'ho pulito la volta a parte. Ripeto, l'ho usato proprio io, sì. E per cui io non l'ho usato mai, perché non li uso. Però è meglio avere, dai. È sapere una cosa, capisci? Ah, io ce ne ho, taglia capelli, e c'ho questa qua che taglia capelli e più regola barba. No. Domenica ci ho trattato questo rago per la barba, ma ci ho tagliato i bei confici, ma ci ho tagliato i bei, mi ha giù ritoccati, ho tagliato, ritoccati, ah, mi ha giù fatto, ma che cosa? Con la macchina c'è pure ciò, che l'ho fatto vista la televisione, a Cagliari, e sarà quanto la mano, è un pezzo quanto la mano. E infatti fa anche la barba, sì, taglia anche le basette, e poi fa anche i capelli, regola, ecco, tipo c'è regolazioni, e non l'ho mai usato, sto, mai usato, sono dentro la cassa, si può immaginare, e quello che ho pagato mi sembra un 140 euro, una cosa del genere, e l'avevo usato anche migliore. Ci compreremmo qualche cosa, apro e rimane pronta l'armadio, rimane, metta giù fattivo, un po' di butti. Ma comprava, c'è proprio dentro l'armadio, quando si è andata a trattare non funzionava niente. Ha sbagliato, ha già sbagliato, bene, grazie, ha detto che mette la mandetta, bene, ah. Ma bravi ha trattato l'armadio, rimunito. Ma certe volte magari una cosa che mi piace, sembra che sia utile, invece non le faccio nemmeno, come ho fatto quello che ho ordinato dalla televisione. Fai i capelli, fai i capelli, stai nel basetto, fa la barba, e ci sono anche nella mente, che è intercambiabile, capito? Diciamo che ci consideramente, un pacchettino piccolino, incastrati sono queste lamelle, basta sollevare questa tappa dentro le lamelle nuove. E puoi immaginare il tuo, ma non un tratto, ma un tratto, che fa chi vede, la cosa è una ventina per farmi la barba, ci vuole dei tutti i tipi. Una giornata bruno, il primo di dicembre, una giornata bruno, mi ha riviso, andò a provarlo la domenica, andò a provarlo e non tagliava. Fa così. stato trattato in Italia. Infatti, si agi tutta una base, si agi tutti. Altro se rilanto, altro con i messaggi nuovi. Ma non taglia per niente, non taglia. Vedi un po'. E certe cose magari sono utili, certe cose fanno piacere, insomma. No, questo per esempio ho comprato la funzione, taglia e mi faccio, se farà fatta bene, perché ho provato. E c'è anche il capire, certo. E rimane come uno, come un pettine, capisco? È come un pettine, se lo regola la gente che tu vuoi, e lo taglia, il tuo, la cosa che non taglia. Taglia poco, non posso tagliare più ancora, non posso tagliare, lo farà quasi a rato se lo fa, se lo vuoi, da bellissimo, è utile lì. Insomma, tutto per la parte di là, da voi, certo, io ho riportato e non funziona, non tagliare bene come devi tagliare. Non è elettrico, è normale, capito? È normale, è una parte la mano, lasciato quanto la mano, e cioè invece taglia così, taglia, magari tagliare 5-6 volte, poi dopo taglierà più tanto, va bene che il specialista ha cambiato, hai capito? Per cui taglia a te. Io ciò che gli andavo a comparare, cioè mi dicevi, già ciò che gli andavo a comparare, quindi me lo compro un buono, però non lo va. Dai chiedi, forse sono buoni pure quello che dico, non lo so. Perché ci sono i tanti tipi che ne sono, capito? Così, i carboncini ho comprato dai cinesi. Solo che sono appena più larghi. Già con la lima, piano piano, le ristocco e le faccio precisi all'originale. Vabbè, i carboncini fatti. Non dire, no, non accorci così. Possiamo cercare quel segreto piccolino, fine, comunque non tagli, nel senso che se ci manca pure quella lima, la lima ancora è buona, però che non se lo scatti, non se lo, che lo scatti, che lo scatti con anche te. Si va a stare attenta con Sant'Anna, che ci sono sulla vita. Già ce l'ho nuovo le lime, a Puglia. Piano piano metto nella morsa, piano piano e la ristocco, lo faccio preciso all'originale, lo faccio, vado a finire dentro e poi le metto le viti per bloccarlo. Magari che funziona, davvero, li pulisco l'indotto anche e funzionerà bene. Che funziona allora, vedo un po', e se lo pugno la figlia di un'altra che si può prendere è prima, e io si deve passare a tornare di Montalvo, a montarlo. Infatti, qui c'era l'idea, qui c'era l'idea, se non funziona, direttamente la mondetta. Una cosa, sono andato a Cagliari con mio fratello, no? con lo 850 Spider, canta, arriviamo a Cagliari, proprio per partire dopo la sera, e lo faccio con la macchina, canta la macchina a terra, tutta la macchina a terra e lo faccio, sto caricando la batteria, la dinamo, certo. Adesso abbiamo smontato la dinamo, dai, allora fumavo, c'è il pacchetto di sigarette, c'è la cassa spagnola, comunque cervello, ho fatto le spazzole e ha dato le grazie e siamo arrivati a scala di gioca cazzo, con quelle spazzole per la casa spagnola. Andavano in cucina, andavano. E invece per le carte spagnole andavano. Ma là, è tutto diverso, ma ridotti avanno. Avanno, ma è tutto diverso, però prima, ripeto, con quel che cazzo, che cazzo siamo arrivati a andare, caricava, però si ferma a scala di gioca perché si è consumato, allora abbiamo chiamato i carabinieri e l'abbiamo portato in officina. Ma benissimo, e se c'è posto una cazzata, eppure se uno non si segna di queste cose, non fa niente. Però prima, con quelle macchine di prima, sì, era diverso la questione. Ma oggi, si ferma la macchina, se si la prende tutto, non parte. Oh, che menina, che fa? È rimasta di due che si ferma la macchina mia, da un senso. Fino a Gloria, penso a poco, ma che mi è arrivato, metto ogni domani mattina glielo piatto ed è pronta, che è? E me l'hai portato luce di subito, che è? Se ce non è un giorno, no, non anda. Ma perché così adesso? Queste macchine adesso sono belle, attrezzate, magari si prende c'è qualche cosa che non va, se non c'è il computer non riesci a aggiustarla, lo sai? Oggigiorno, neanche da molto che mio genero sarà ordinato, nuovo, l'ultima generazione. 8.000 euro l'ha pagato. Ha pagato 8.000 euro. A posto? No, il coso che si usa nelle macchine, con il computer, che si attacca alla macchina, con tutte le cose giuste per tutte le macchine. Ha pagato 8.000 euro l'ha pagato. Non so, quella macchina è cosa? Beh, uno che fa quel lavoro come il cioccolato, chiaro che serve, perché senza quello non può lavorare, specialmente oggi, prima magari era diversa la questione, proprio subito il guasto non era, ma adesso se non c'è quello strumento non fai niente, e ha fatto bene se lo tira, costano, però serve. Ed è molto utile. Ma anche quello strumento lì mi serve per le macchine elettriche adesso. Perché adesso ci sono le macchine elettriche che hanno entrato in officina una macchina elettrica. Attacchi dice lo strumento e ti dice da dove il guasto, ti dice. Oltre alle macchine che c'erano prima, te lo dice con le macchine nuove che stanno uscendo adesso, elettriche. Normale, no? È fatto bene, infatti. È fatto sì, tipi di motori di macchine. E allora, è giusto che deve essere così. Però mai ci sono questi attrezzi che vengono per tutte le macchine, capito? Sia adesso, sia diesel che a batteria, che a benzina. Ha fatto bene, costano, però è giusto che ce l'abbia, almeno si lavora, capito? Sì. Se vuoi averlo devi pagartelo, ma poco a poco se lo paghi però ti dai. A me me l'ha fatto vedere con l'attaccata alla macchina mia, e l'ha detto cosa vera. Ma ho ordinato il pezzo e arrivi giù subito e me l'ha piazzato. Dice adesso è a posto. Un rumore me lo fa di sempre, me lo fa di. E quella è un'altra cosa che dobbiamo smontare, ma di un altro giorno. Vedo un po', vabbè. Certo, vedo un po'. Però, cazzo, quell'attrezzo serve, almeno sai cosa c'è, e lo dici direttamente originale per cui. Sì, devi andare bene per forza, capito? Infatti, non è così. la maggiore che deve prendere la macchina, sono andati a, a farla portare con il carro attrezzi, l'ha fatta portare che non camminava, ha attaccato lì quello strumento lì e gli ha detto cosa era, ma ha cavato l'orologio per guardare la sigla, l'ha ordinato 2 giorni e dirà porco nuovo, dirà porco originale, se non era originale non camminava la macchina. Ma è così, so, fa. Oggi purtroppo questa macchina di uso è un macello. Si vuole attraverso il giusto, almeno sai già cosa si dice e cosa c'è. Tutto dice, tutto, dalla la testa. Poi per carità, a me non mi funzionavano. Il contatto delle, dello sportello dalla parte mia, sportello di lì. Sono andato una vita, l'ha attaccato quell'attrezzo, e dice è possibile, e c'è lui una parte, e gli ho segnato, ma è possibile, funziona ancora sta funzionando. Sì, no, fanno che cazzate, queste cose, e poi ci fate il montone di là. Sono utili, ecco lo già è. Cazzo, ti faccio già bene tutto, ti faccio già bene. Ma qua c'ha quello lì, c'ha gli altri, li usa tutti e tre, li usa. Li sta usando tutti e tre, per le macchine vecchie, macchine nuove, è tutto quanto. E purtroppo oggi deve essere attrezzato. L'officina che va, lì cambia da mano, da quella che c'aveva prima, e quindi passano, no, passa tutto, passa. Prima non esisteva questo attrezzo, prima usavo in testa, anche per mettere a punto, usavo in testa con la lampadina, e c'erano a mettere con lì, il coso giusto con questo attrezzo. Mettete invece questo carta che testa, ma quello è un sensorone che fa tutto, è un cervello elettronico, cioè, e tutti i siti. Io non lo so, che fa tutto quanto gli fa. No. Fa pure a posto a Barreto, la lampadina che non funzionava. Ma con questa cosa qua, soltanto che viene aperto il mazzo, viene aperto, viene tutta arrugginita. Cosa, gli alberi non funzionava, tutta arrugginita. Gliel'ha messo a posto, gliel'ha pulito, tutto quanto, e funziona. Ha pigliato 200 euro, l'ha pigliato. Se vuole così, ma facciamo o non lo facciamo? Ha detto la faccia, 200 euro. C'è lavoro a smontare, a smontare, a cazzo. Cazzo, c'è l'usando la parte sua, cazzo, è chiaro che è normale, no? Cazzo. Ma io ce l'avevo una faccia di dietro, perché era un po' di girotto, ho aperto, ho toccato con la carta pesata a fine fine, ho pulito bene i contatti della lampadina, dalla due contatti perché era quello di scopo e quella delle luci di posizione. L'ho rimessa e ha funzionato tutto, perché era oscillato. Ma amico, bisognava cavannini, tutto da mezza macchina da lì bisognava rimontare. Ecco perché. Le ha fatto vedere, dice guardi, c'è da smontare tutta questa parte qua, se vuole che gliela faccia me la deve lasciare la macchina e venga stasera a prendere. Mi ha rimontato tutta la base, mi ha rimontato, ha andato giù la sera che ho davata, certo, era tutto arrugginito, rientrava, era subì, per un fanalino. E ha smontato, mezza notte ha smontato per pulirlo. Ha portato fuori, l'ha pulito, dove si è riparato, dove, cioè, dove entrava l'acqua, e ora non entra più. Ha dovuto mettere lo stucco a ferro, gli ha dovuto mettere per non entrare acqua, da dentro. E gli ha aggiustato. Ecco qua. Ha fatto un conto a 200 euro. Prendere o lasciare. E se ne è andato. Era tranquillo, ha rovato, che lui si ama tu. Ma contro che giovane non l'ha più. Ah, come si è fatto a me lì? Mi era bruciata la pagina che è con 3 chilometri. Sono giù che ci insegnava quanti chilometri hai fatto, quanto dopo lo puoi anche azzerare. Non mi funzionava la pagina, in questo momento funzionava. Però la pagina era bruciata. Per cambiare quella padina ha dovuto smontare e sconfesso dove ci sono le frecce e anche dall'altra parte. Tutto lo scotto ha dovuto smontare, ma poi la padina minorese che ha stato di India si sia libera, non so. Ma mica ha visto cosa ha fatto, questo un travagliato di tutti i colleghi, ha preso 70 euro, ma il lavoro l'ha fatto. Perché ha smontato meglio freddo più corto. No, ma a me doveva cambiarmi un affare che dovevi aprire, sotto lo stesso dovevi aprire. Cioè non mi funzionavano i tetti cristalli automatici che facevano a coso, e non facevano contatto, che c'era questo prodotto bruciato. E diceva, ma ho ordinato e ho affrontato tutto sotto e me l'ha piazzato. E adesso funziona. Prima funzionava fatti a giubito, ora invece è un po' lento. Ma non me l'ha ciambato, è un po' lento. Ora rimane in cucina. Le macchine moderne, insomma. Troppo complicate sono. Gloria, per carità. Il fatto sta che dopo come lavorano queste macchine, se una cosa si guarda, abbiamo cambiato il motore, apri la punta, è un casotto, purtroppo è così, non puoi partire, non vogliamo una macchina bella, attrezzati, fine, che appena vivo ne so. Un sacco di reati voli, ma quando entrano in cucina non sai che hanno un nisci. Sai che non entra, ma non sai che hanno un nisci. Ecco cosa è. Questa cosa è. Si parla di mani uccelli, fiori, pioggiati, che non mi dice di dare già via, li arrivo. E mi rabbai da. A me mi giamba rubetto, mi giamba. Mi giamba ancora un pezzo. Ma ho ordinato, però ancora non è arrivato. Dice al prossimo anno, quando la chiamo, me la lascia e la facciamo. Ma arriva da fuori, non arriva dall'Italia, da fuori arriva. No, cosa arriva? Non mettere che lo combattito. Mi pare un senso dalla Cina arrivi. Perché qua in Italia non si trova. Ha avviato dalla fabbrica ordinato. Quando arrivi me lo piace. E allora va bene. Allora va bene. Però strano che vedono questa macchina non stanno il ricambio. Sto andando a odiare dalla fabbrica. Non tutto possiamo avere nella vita, purtroppo è così. Va bene, io chiudo, ci sentiamo domani se coincide. Buon finimento, grazie alla chiacchierata. Saluto di casa, domani sto. Chiudo. Ok Gianmarì, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Gianmarì, stammi bene.